Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ebbene sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si inizia la settimana, si finisce questa giornata, ma si inizia quindi la settimana con quello che è successo oggi, con l'affossamento da parte dell'Aula della Camera della parità di genere nella riforma della legge elettorale, roba che non interessa, anzi che evidentemente preoccupa, e si è votato con il voto segreto, quindi nell'oscurità recondita dell'urna, il voto segreto, è stata bocciata questa possibilità di arrivare appunto a una parità di genere nella rappresentanza politica. Qualcuna già molto scontenta, perché sapete che c'era uno schieramento trasversale di deputate e anche di uomini, per carità, che avevano chiesto che si arrivasse a questo risultato da molte in Forza Italia. Forza Italia era particolarmente spaccata, poi c'era PD, SEL, Nuovo Centrodestra. Qualcuna quindi molto scontenta già potrebbe immaginare di criticarlo come Repubblica delle Banane, dove ancora oggi non si riesce a raggiungere questo risultato. E allora mi viene in mente un altro argomento che riguarda le banane. Spesso si parla del colosso finanziario, di un colosso energetico, di un colosso delle assicurazioni, invece in questo caso oggi si parla di colosso delle banane. Perché? Chiquita e l'irlandese Fifth hanno annunciato una fusione che darà vita al nuovo colosso delle banane, con un fatturato annuo di circa 5 miliardi di dollari. Pensate come viaggiano bene anche le banane. Bene, e dopo di questo direi di partire con un bel riassunto della giornata. Italicum, la Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento bipartisan sulla parità di genere, anche poi l'ultimo emendamento sulla parità su cui il relatore e il governo si erano rimessi all'Aula. Si tratta della proposta di modifica che prevedeva una percentuale almeno al 40-60%, se non al 50%. Camusso contro Renzi, decidere tra IRAP o IRPEF, dice il mondo non è un derby. Ucraina ha convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU per la crisi in Crimea, la NATO fa alzare in volo ieri radar. Tragedia in montagna, indagato per omicidio colposo il 17enne che aggressionei ha travolto sulle piste da sci una bimba di 3 anni. E una notizia uscita in questo istante, spara due donne e le ferisce, poi si suicida. Vediamo esattamente dove è successo, visto che è uscita proprio in questi istanti. Ha ferito a colpi di pistola due donne, una delle quali alla testa in modo grave, poi ha rivolto l'arma contro se stesso, si è suicidato. È successo poco fa a Salerno, in un'abitazione di via Palinuro nel rione Mercatello. Sul posto ci sono i carabinieri. Per chiudere il calcio, verso Brasile 2014 è Cassano, l'asso nella manica di Prandelli. Partiamo quindi dalla politica e quindi dall'Italicum, che si è prima incagliato sulla parità di genere, poi l'ha decisamente affossata. La Camera l'ha bocciato a scrutinio segreto. Che giornata, Betta Fiorito. Ciao Betta, in diretta da Roma. Sì, buonasera qui da Montecitorio, perché le votazioni e le discussioni ancora continuano. In questo momento l'aula di Montecitorio sta discutendo se fare o meno la capigruppo per andare avanti con i lavori riguardo all'Italicum. Perché? Perché sono stati appena bocciati tutti quanti gli emendamenti sulle quote rosa, Roberta. Già. E quindi è una giornata brutta per le donne, o almeno per le parlamentari italiane. Ma non solo per loro. E per noi donne, diciamolo, perché noi insomma a queste quote magari non ci crediamo troppo, però capiamo che in un paese come l'Italia forse sono ancora necessarie. Uno strumento eccezionale in un paese eccezionalmente maschilista, forse, diciamo. Sì, dove ricordiamo ancora oggi non c'è stato mai un Presidente della Repubblica donna e un Presidente del Consiglio donna. Già. E mentre Angela Merkel, non so quanti, a che mandato sia, capito Roberta? Terzo, almeno il terzo se non sbaglio, allora, memoria di donna. La cosa fondamentale però è il dato politico che c'è, e sono due. Il primo, che il Partito Democratico è di nuovo spaccato dal voto segreto, come era successo per le votazioni del Presidente della Repubblica, perché i voti del Partito Democratico alla Camera sono 293 e invece i sì sulla parità di genere, quindi sull'emendamento principale, sono stati appena 227. Quindi dove erano i democratici, calcolando che hanno votato sì le donne degli altri partiti, tipo le deputate di Forza Italia, di SEL e anche di altri gruppi? Quindi lo scrutinio segreto non fa bene al Partito Democratico. L'altra è che c'è stata una piccola apertura, almeno sulla libertà di coscienza, da parte di Forza Italia. Che cosa è successo? C'è stato un duro intervento in aula di Stefania Prestigiacomo, e subito dopo che ha detto che votava in dissenso con il suo partito, che era un partito che era sempre stato libertario e adesso invece dava una linea rigida eccetera, a quel punto si è alzato Brunetta, che è il capogruppo di Forza Italia, ha detto: non è vero, noi stiamo dando libertà di coscienza, e quindi c'è stata una piccola retrocessione. Poi gli uomini nel segreto dell'urna, come al solito, hanno votato a favore loro e contro tutte le donne italiane, però va bene. E infatti così. La Prezzi Giacomo diceva oggi sul Corriere: si vogliono tenere le poltrone, insomma, no? Dice per l'Europa. L'ha ripetuto in aula. Poi c'è stato il Movimento 5 Stelle che non crede alle quote rosa, perché loro dicono: noi con le parlamentari abbiamo già avuto il 40% di donne in lista, e quindi non è una battaglia che hanno voluto fare, anche se si vociferava che attraverso il voto segreto erano un po' tentati di votare sì, perché questo praticamente avrebbe fatto passare le quote rosa e far vedere che in realtà questo patto tra Renzi e Berlusconi non reggeva la prova dell'aula, insomma. Quindi ci sono state parecchi colpi di scena, però il dato è che le quote rosa non sono passate e che quindi le donne non avranno una legge che bene o male le favorisca minimamente in un paese, come dici tu, molto maschilista ancora, Roberta. Grazie Elisabetta Fiorito, grazie. Così è andata quindi su queste votazioni. Se avete delle opinioni, come sempre, da esprimere, lo sapete, con Effetto Notte c'è la pagina Facebook, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure i messaggi 349 238 6666 su questo tema, o anche per esempio su cosa scegliereste, dove tagliare, sull'IRAP, quindi sulle tasse relative alle aziende, oppure sull'IRPEF, quindi le busta paga dei lavoratori. Cioè, ci sono i temi che volete per esprimervi. Intanto con l'Italicum, che abbiamo detto com'è andata, il Presidente del Consiglio lavora anche all'annunciato taglio delle tasse, appunto. Mercoledì è il giorno fissato, ma a sfidare Matteo Renzi è ancora la leader della CGIL, Susanna Camusso. Taglio del cuneo fiscale con un effetto positivo sul PIL fino allo 0,8% ed ancora Jobs Act, piano case ed edilizia scolastica. L'appuntamento con le prime riforme targate Matteo Renzi è per il Consiglio dei Ministri di mercoledì. Sul primo capitolo, quello delle tasse su chi lavora e produce, c'è in ballo un taglio da 10 miliardi di euro. Puntiamo ad aiutare chi guadagna fino a 1.500 euro al mese con l'obiettivo di rilanciare i consumi, fa capire il Presidente del Consiglio, che boccia la polemica delle parti sociali su quello che Renzi chiama il derby tra IRPEF ed IRAP. Il mondo non è fatto di derby, replica dalla CGIL Susanna Camusso. Deve sapere che quella parte del paese, che poi la parte del lavoro e delle pensioni, sta guardando ai suoi tanti annunci e alle coerenze che poi ci saranno tra gli annunci che fa e l'idea di avere un'effettiva svolta di politica economica. Sulla stessa linea Bonanni Cisle, che invita Renzi alla cautela. Poi se lui fa discorsi di riforma, io non aspetto altro, io sono stato perseguitato per essere stato un riformista del sindacato. Il capitolo edilizia scolastica, poi, il governo vuole aprire i cantieri entro l'estate partendo da 2 miliardi già trovati, 10 in 3 anni, puntiamo ad escluderla dal patto di stabilità interno degli enti locali, spiegano dal Ministero dell'Istruzione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al suo debutto a Bruxelles c'era invece il neoministro per l'economia Carlo Padoan, ma sentiremo dopo nello spazio europeo. Qui Effetto Notte, come è andata la giornata dell'Eurogruppo, che cosa è riuscito a portare a casa il ministro dell'economia, anche se aveva detto: noi siamo qui in Europa non per chiedere favori, ma sappiamo cosa fare, insomma. E se la disoccupazione è in crescita, lo è anche per chi ha una laurea. Oggi sono arrivati i dati del rapporto Alma Laurea. Ad un anno dalla laurea si guadagna intorno ai 1.000 euro netti al mese. Una busta paga sempre più light, quella di chi ha studiato in Italia, se si considera che nel confronto 2008-2013 le retribuzioni reali sono diminuite di circa il 20%. Emerge dal rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati, dati che confermano comunque che rispetto ad un diplomato il laureato conserva più chance, anche se per attendersi un miglioramento economico 1.400 euro al mese deve aspettare almeno 5 anni. Siamo ben lontani dal balzo che avviene in Francia e Germania, dove un laureato guadagna il 42% in più di un diplomato. Rispetto ai partners europei, forse è per questo che in Italia solo il 30% dei diciannovenni si iscrive oggi all'università. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dove adesso la protesta, insomma, delle deputate del PD dopo la bocciatura dell'ultimo emendamento che fissava un compromesso 60-40% le percentuali della presenza delle donne nelle liste, il gruppo non ha rispettato l'accordo, così si lamentano in transatlantico le parlamentari chiedendo al capogruppo Speranza una riunione immediata su questo tema. Torniamo quindi al riassunto: segno ancora negativo nel 2013 intanto per il mercato immobiliare, le compravendite sono calate del 9,2% sotto i livelli del 1985, questo è quanto emerge dai dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, poi ne parleremo più tardi. Per quanto riguarda la produzione industriale si parla di una ripresa a gennaio, l'incremento mensile è il più alto quasi da 2 anni e mezzo. Riparte con il piede giusto la produzione industriale nel 2014 con un balzo di 1 punto percentuale a gennaio rispetto a dicembre del 2013. La crescita c'era già stata a novembre con un aumento di 1,5 punti. Si era interrotta però proprio a dicembre con un calo dello 0,7 che aveva annullato con questa inversione di rotta il primo segno più dopo 2 anni consecutivi in rosso e 26 cali di fila. Ma la buona notizia non finisce qui, perché secondo l'Istat in termini mensili per trovare un dato migliore bisogna tornare all'agosto del 2011 e anche su base annua rispetto all'anno scorso la crescita è ancora più robusta, pari all'1,4%, tenendo conto di una giornata lavorativa in meno. Le speranze ora si riaccendono grazie a settori tradizionali come la fabbricazione di mezzi di trasporto, su del 12%, metallurgia, su di quasi 10 punti, e la fabbricazione di articoli in gomma. In ribasso, invece, con cali intorno ai 6 punti percentuali, l'attività estrattiva, la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica e la fornitura di energia elettrica e gas. Un recupero, ma c'è ancora tanta strada da fare. In Germania, a gennaio, la produzione industriale di Berlino è cresciuta del 5%. Più del triplo rispetto all'Italia. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Adesso all'estero la NATO ha deciso di far alzare in volo i suoi aerei radar sui cieli di Polonia e Romania per monitorare la crisi in Ucraina, e poi è tornato a riunirsi il Consiglio di sicurezza dell'ONU per capire anche come affrontare la crisi in Crimea. Ed è il momento delle smentite invece sul mistero dell'aereo della Malaysia Airlines, sparito nella notte tra venerdì e sabato con 239 persone a bordo. La lunga scia d'olio individuata in mare non avrebbe niente a che vedere con l'aereo scomparso. Il governo della Malaysia smentisce anche le notizie sui passeggeri in possesso dei passaporti rubati a un italiano e a un austriaco, non sarebbero asiatici. Adesso la cronaca di nuovo in Italia. Negli ospedali italiani il numero dei medici obiettori è molto elevato, arrivano all'85% in alcune regioni, e quindi molto spesso non è garantito il diritto delle donne a interrompere la gravidanza secondo la legge 194. A pochi giorni dalla condanna del Consiglio d'Europa all'Italia per questa violazione dei diritti fondamentali, oggi è arrivata la denuncia di una coppia di Roma, Valentina e Fabrizio, per una vicenda del 2010. I medici dell'ospedale Pertini di Roma, in cui Valentina si era recata per abortire, erano tutti obiettori, quindi nessuno le ha prestato aiuto, è stata lasciata sola col marito ad abortire in bagno nell'ospedale. La denuncia è stata resa nota dall'associazione Luca Coscioni. Filomena Gallo, segretaria dell'associazione e uno dei legali della coppia, lo sentiamo al microfono di Paolo Panceri. Questo si chiama omissione di soccorso. La legge 194 prevede l'obiezione di coscienza e prevede però che nella fase in cui era Valentina il medico non poteva esimersi dal soccorrere la donna in grave stato di salute in quel momento, e quindi si configura un reato. Sentiamo parlare dell'aumentare del numero dei medici obiettori di coscienza e della diminuzione dei ricorsi all'interruzione di gravidanza, e nessuno dice che purtroppo è impossibile abortire in Italia qualora ce ne siano i supposti riconosciuti dalla 194, perché l'alta presenza dei medici obiettori va a confliggere con il diritto della donna, in base a determinati requisiti, di poter interrompere la gravidanza. Scusate, c'erano un po' di problemi in questo servizio. Restiamo sulla cronaca. La procura per i minorenni di Torino ha indagato per omicidio colposo il ragazzo di 17 anni che domenica ha investito con gli sci una bambina milanese di 3 anni sulle piste di Gressonei. E poi una sentenza che riguarda un pirata della strada, 3 anni e 4 mesi di reclusione e sospensione della patente per altri 3 anni. Questa è la pena per il pirata della strada che il 10 luglio scorso ha travolto e ucciso a Gorgonzola nel milanese Beatrice Papetti di 16 anni, che era in sella alla sua bicicletta. E chiudiamo così con un annuncio, o meglio una lettera, apparsa oggi su alcuni giornali. Letizia, amore mio, te lo ricordi? Era il 10 marzo e c'era il sole. Comincia così una struggente lettera d'amore pubblicata a pagamento sul Corriere della Sera di oggi da un marito in versione gentiluomo. Una pagina intera scritta a mano con un bel cuore disegnato ad acquarello per festeggiare l'anniversario. Il marito, che si chiama Olimpio, un nome un po' sospetto, diciamolo, dopo una straordinaria cascata di complimenti, si congeda con un post scriptum. Per sicurezza, cara, ti va se per cena andiamo al ristorante? Com'è dolce, dicono le ottimiste rapite da tanto amore, finalmente un gentiluomo, ma i cinici replicano, sì, buonanotte, l'invito al ristorante, la tua splendida voce, ma figurati, ragazzi sveglia, questa è una campagna pubblicitaria, non fatevi infinocchiare. Insomma, non crediamo più a niente, magari questo Olimpio è l'ultimo dei romantici, ma il nostro cuore di pietra, indurito dalle troppe illusioni, dice di no. Che quel 10 marzo non c'era il sole, anzi, come direbbe Snoopy, era una notte buia e tempestosa, buona solo per altre fregature. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo qui, Roberta Giordano con voi, vedo i vostri messaggi che arrivano di nuovo, dicono basta il merito, in realtà poi si parla sempre di merito e meritocrazia quando si cerca di equiparare le situazioni, se ci fossero soltanto uomini totalmente nel Parlamento, al potere o in una trasmissione radiofonica o televisiva, nessuno ci troverebbe niente di strano, se si comincia a dire beh però anche qualche donna non ci starebbe male, allora lì subito bisogna dire no, bisogna che se lo meriti, non so cosa, come la pensa, anzi un po' l'ho capito, senatrice Anna Cinzia Bonfrisco di Forza Italia, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e soprattutto alle ascoltatrici questa sera. La ringrazio. Insomma, come l'ha vissuta? Come una sconfitta? Questa è una sconfitta di chi, tra l'altro? Dello schieramento trasversale che c'era stato in Parlamento, di donne di vari partiti, della politica italiana, dei politici italiani, dell'Italia intera, oppure no? Non è una sconfitta, è un primo passo. Come la vede? Io questa sera... L'amarezza prevale probabilmente su altre considerazioni e quindi la vivo come una grave sconfitta, l'ennesima grave sconfitta della politica, dei partiti, di coloro che orientano le decisioni, perché di fronte alle tante critiche che i cittadini rivolgono alla politica, ce n'è una che a me colpisce di più in particolare, l'incapacità di saper ascoltare, percepire e interpretare i cambiamenti, i nuovi bisogni, le moderne afflizioni della nostra società. È la quota rosa risolutrice di questo? No, però è un primo passo questo per aprirsi a una società in cambiamento. È una società che ha già fatto registrare molti avanzamenti su questo terreno, sul fronte dell'economia, su quello sociale e quello più importante di tutti, quello culturale, della ricerca, della cultura in generale, dove la presenza delle donne è oggi pacifica. Perché non deve esserlo in quelle istituzioni che dovrebbero rappresentare al meglio le tante sfaccettature della nostra società? E allora a me viene facile la banale considerazione che di fronte al cedimento di pezzi di potere si alzano muri invalicabili da parte di chiunque chieda migliori condizioni di accesso a quel potere, a quelle istituzioni, siano oggi le donne o siano altre. Senatrice Bonfrisco, però lei ammetterà che la spaccatura è stata soprattutto all'interno del suo partito di Forza Italia, anche se poi abbiamo visto che a scrutinio segreto, nel segreto dell'urna, mancano molti voti anche del PD in realtà, no? All'approvazione di questa... Si è celebrata la fiera delle ipocrisie su tutti i fronti, su uno schieramento come sull'altro. Nessuno degli schieramenti politici, i principali che hanno determinato l'accordo su questa legge elettorale, può chiamarsi fuori dalle responsabilità. Chiedere la capigruppo adesso sospendendo l'aula non serve a niente, occorreva una gestione politica attenta anche da parte di molte mie colleghe, ritengo, di un tema così delicato, così fragile che andava trattato con molto più rispetto. Certo, non posso mettere sullo stesso piano qualche errore di ingenuità commesso da qualcuna, magari, rispetto invece a dichiarazioni orrende e volgari che ho ascoltato compiere in quest'aula, nell'aula della Camera, da parte di molti colleghi, dove per volgarità, mi permetto di specificare, intendo una visione davvero arretrata, davvero trinariciuta, per cui si alza l'asticella della richiesta del merito solo quando si tratta delle donne, quando si tratta degli uomini non si chiede mai niente. È pacifico. Senatrice Bonfrisco, le faccio sentire, visto che era stata qui Effetto Notte venerdì, la sua collega Daniela Santanchè, che invece aveva una posizione opposta alla sua. Sentiamo una prima dichiarazione, vediamo. L'alternanza non risolve assolutamente niente, perché sappiamo che i collegi come vengono disegnati passerà una sola persona, quindi un conto sarebbe la battaglia sui capolista, un conto su quella dell'alternanza, basta mettere prima un uomo e poi una donna e già sappiamo che ne viene eletto soltanto solo l'uomo. Uno, quindi mi scusi onorevole, quindi lei metterebbe una norma sui capolista? Farebbe no, questo? Io farei una cosa diversa, sì. Siccome noi siamo sempre strumento degli uomini, perché a me non interessa aumentare la platea dei parlamentari o dei senatori, che mi auguro che le prossime elezioni in Senato non ci sia più, perché siamo strumenti, siccome noi non siamo nei movimenti politici, nei partiti o poche, nelle sedi con ruoli dove si decide, diamo sempre donne in pasto agli uomini, non sono mai donne scelte da donne, sono donne scelte da uomini. Questa era la sua collega onorevole Santanchè, senatrice Bonfrisco, e poi le faccio sentire ancora soltanto altri 40 secondi della proposta che invece faceva Daniela Santanchè venerdì qui Effetto Notte. Io sono disposta a fare qualsiasi battaglia, tant'è che domani esce un mio appello al presidente Berlusconi, dove non chiedo di far passare queste quote, che insomma se ne parla da tanti anni e non è il problema del numero delle donne, ma che ruolo vanno a coprire le donne in quei ruoli apicali, ma chiedo al presidente Berlusconi di farlo invece all'interno del nostro movimento politico, in una sorta di dualismo, c'è un amministratore donna e un uomo, c'è un capo dell'organizzazione, un uomo, una donna, c'è un capo del tesseramento, un uomo, una donna, per sensibilità e visioni diverse, soprattutto per sederci in quei luoghi dove si prendono le decisioni. Che ne pensa, senatrice Bonfrisco, di questa proposta della sua collega Santanchè? È un'eccellente proposta e accetto la provocazione culturale di Daniela Santanchè, che è portatrice di un dibattito onesto, una posizione sulle quote che lei ha sempre avuto così, io l'ho sempre avuta diversa, ma è un confronto chiaro, trasparente, e ha ragione Daniela Santanchè quando dice il numero in Parlamento, per come è ridotto il Parlamento oggi, poi soprattutto rischia di diventare un dettaglio, lo dimostra anche direi la modesta adesione a questa battaglia da parte di molte parlamentari, che è un dato che mi deve far pensare, del quale io devo tenere conto, per capire che meglio che c'è un processo politico dentro i partiti che deve essere favorito. Ecco perché è buona la proposta di Daniela Santanchè, e mi aggiungo al suo appello, proprio perché laddove poi si formano, diciamo così, orientamenti, decisioni, scelte, lì ci sia questa parità di genere, di visioni diverse garantita, per poi approdare alle istituzioni. Lo vediamo nelle nostre amministrazioni, dove per esempio aver favorito con la preferenza di genere l'opportunità di votare una donna oltre il candidato, magari maschio se preferito, ha consentito a molte donne di approdare nelle nostre amministrazioni locali. Ecco, noi abbiamo davanti un cammino, io non penso ci sia l'ora X in cui scatta tutto e tutto si risolve, sono però certa del fatto che le buone leggi, le grandi leggi, anticipano e aiutano un paese ad avanzare su alcuni terreni, e ci sono leggi storiche da questo punto di vista. Se con un voto segreto avessero potuto scegliere i deputati dell'epoca o i senatori dell'epoca, avrebbero votato la legge Merlin, secondo lei? Io penso di no. Penso che anche in quel caso sarebbe prevalso il ragionamento spesso asfittico che ho sentito in questi giorni da parte di molti uomini, nel quale mi rammarico profondamente, perché io sono certa che la società italiana non è quella che loro rappresentano, è quella che loro descrivono. Mi scusi, senatrice, no. Bonfrisco, lei si riferisce anche a uomini del suo partito, di Forza Italia, quando dice così? Certamente sì, no. Mi rivolgo a tutti quelli che si sono incaricati di spiegare che votavano in modo contrario, ancorché segreto, pensi, nemmeno il coraggio di votare con votazione palese. Io ricordo le battaglie di molti negli anni Ottanta, ad esempio, per abolirlo quel voto segreto. Qual era la questione di coscienza che poteva giustificare questo voto segreto? No, era solo la necessità di nascondersi dietro un voto segreto, per non rispondere in prima persona. Il proprio voto, della propria scelta. Una scelta che vuole negare l'opportunità e la possibilità di avere un Parlamento rappresentato secondo quella che è la società italiana. Senatrice Bonfrisco, l'ultima cosa e poi la lascio andare. Vedo un'agenzia che riporta una dichiarazione di Guerini del PD, portavoce della segreteria del PD, che dice: per il Partito Democratico non cambia assolutamente niente, perché noi manteniamo ancora più forte l'impegno per il 50-50 nelle liste elettorali. Pensa che riuscirà a convincere Berlusconi a farlo al momento del voto? Guardi, lo ha detto prima Daniela Santanchè nell'intervista che lei ha fatto risentire. Il 50-50 in una legge elettorale dove, secondo i calcoli che vengono fatti, che sono stati proposti dallo stesso ideatore di questa legge, no? Il professor Dalimonte, passa una persona per collegio. E cosa vuol dire 50-50? Che siamo quella persona a metà? Quindi, se si parte da un uomo, inevitabilmente non eletto sarà di genere femminile. Ecco perché era giusta la battaglia sui capilista, mettere al 50% nelle liste, il 50% delle liste, come capolista una donna. Chiarissima. Anna Cinzia Bonfrisco, io le auguro buona continuazione, buon lavoro, buona tenacia, ecco, su questi temi. Va bene. Ma alle donne la tenacia non manca. Tra le tante qualità delle donne, quella della tenacia forse è la vera spiegazione per cui siamo ancora qua a reggere un paese e forse ad essere l'ultima risorsa di questo paese. E allora vado avanti, grazie senatrice Bonfrisco. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Antonio Polito. Eccomi. Ecco Antonio, direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere della Sera, non ha bisogno di presentazioni. Hai sentito Antonio il disappunto anche di una senatrice che era di Forza Italia, il partito diciamo che si è un po' più impuntato, messo a muro di fronte a questa possibilità di fare, di approvare l'emendamento dell'alternanza donna-uomo nelle liste e anche sull'emendamento relativo ai capilista, no? Che cosa pensi di questo risultato? Come hai visto questa vicenda, Antonio? Ma io penso che abbia ragione la senatore Freder Bonfrisco, devo dire la verità, perché l'argomento che sentivo che tu prima riportavi di alcuni lettori, che deve valere il merito, non il sesso, non il genere, sarebbe un argomento convincente se in Italia ci fosse un sistema per il quale gli elettori possono scegliere i propri rappresentanti. Certo. Se ci fosse la preferenza o il collegio uninominale, tu potresti dire: viene eletto chi viene scelto dal popolo, donna, uomo che sia, dipende dal merito. Ma avendo noi le liste bloccate, le avremo anche in futuro nella prossima legge, e avendo l'ecosistema che diceva giustamente la senatrice Bonfrisco, cioè col fatto che alla fine viene eletto uno, al massimo due per collegio, questo argomento non regge. Allora noi siamo tenuti, secondo me, saremmo stati tenuti a introdurre nella legge una forma di salvaguardia della parità di genere, che consenta appunto alle donne, che sono una parte ormai molto importante della società italiana, e non solo della società italiana, ma anche diciamo della vita politica italiana, di avere un accesso stabilito, garantito in queste liste, perché i partiti sono diretti da uomini, diciamoci la verità. Ecco. Solo che sembra che non si possa dire questa cosa, ma mi sembra che sia così abbastanza palesemente, Antonio Polito, o no? Direi proprio di sì. Se escludiamo Fratelli d'Italia, per il resto i partiti sono diretti da uomini, sono saldamente in mano a uomini, i quali talvolta generosamente o per motivi propagandistici si circondano di un po' di donne, le quali se poi sono brave emergono, come è successo prima in Forza Italia nel PDL e oggi sta succedendo nel PD, ma all'inizio questo soffitto di cristallo che tiene, che impedisce alle donne di crescere, va rotto con una iniziativa, e questa lo era, mi dispiace che non è passata. Scusa Antonio, l'ultima cosa ti chiedo: a chi per esempio dice ma insomma i partiti alla fine sono associazioni private, quindi se si vuole, se si presenta un partito che dice noi siamo il partito dei macisti, vogliamo soltanto uomini, e poi prende, che so, il 60%, evidentemente vuol dire che per la società italiana, cioè, nella società italiana c'è un certo consenso verso un certo modo di vedere le cose. E che quindi non c'è bisogno di affermare. Partito dei macisti. Non ho capito, Antonio. Cioè, voglio dire, se esiste un partito di macisti, vediamo se prende il 60%. E la verità è un'altra, che tutti i partiti si presentano sostenendo che loro hanno a cuore la parità di genere e il ruolo delle donne, e quindi cercano voti dalle donne in nome di questo. Io vorrei vederlo io un partito di macisti che prende il 60% nell'Italia di oggi, non ci credo che ci sia. Però se Forza Italia, che è stato il partito che più si è messo mi pare di traverso, no? Su questa faccenda dell'alternanza donna-uomo e sulla questione dei capilista, dovesse ancora raggiungere un certo consenso, che cosa significa questo secondo te? Vabbè, vuol dire che la gente non vota soltanto per quella questione lì, vota per tante ragioni, non solo per quella. Ciò non toglie che quella ragione era ragionevole. Aggiungo una cosa, che è vero che in Forza Italia c'è stata l'opposizione più palese, ma io sono abbastanza certo, anzi direi senza l'abbastanza, certo. Nel PD c'è stato invece segretamente. I parlamentari del PD in grandissima parte hanno votato contro. E aggiungo anche un'altra cosa, che trovo singolare che il governo non abbia preso una posizione su questi emendamenti, rimettendosi all'Aula quasi come se fosse una questione che spettava Forza Italia risolvere, perché Forza Italia non è nel governo, e quindi il governo, se il PD pensava, come dice di pensare, che quell'emendamento era giusto, avrebbe potuto e dovuto esprimere una posizione in Aula e invitare i propri parlamentari a votare a favore. Perché secondo te non l'ha fatto Renzi? Perché ha avuto un'occasione d'oro per nascondersi dietro ai problemi di Forza Italia e ci si è infilato. Grazie Antonio Polito, grazie, buona serata. Grazie a voi. Ciao Antonio. Ciao. Adesso prendiamoci una piccola pausa per la pubblicità. Vedo ancora Renzi che dice il PD assicurerà l'alternanza in lista, quindi prima c'era il portavoce della segreteria del PD Guerini che diceva assicureremo la presenza del 50-50, e adesso dice una cosa in più Renzi, anche se Antonio Polito dice che si è preso l'occasione per nascondere i problemi, le incertezze, la mancanza di accordi dietro alle questioni di Forza Italia. Qui Renzi dice il PD assicurerà l'alternanza in lista. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Vi ricordo, prima di affrontare il prossimo argomento, quali sono stati i temi centrali di oggi. Italicum, no le quote rosa, bocciate con voto segreto le deputate per protesta in bianco in aula. Camusso contro Renzi, decidere tra IRP o IRPEF, il mondo non è un derby, dice la leader della CGIL. Ucraina ha convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU per la crisi in Crimea, la NATO fa alzare in volo gli aerei radar. Tragedia in montagna, indagato per omicidio colposo il 17enne che aggressione aerea ha travolto sulle piste da sci una bimba di 3 anni. Calcio verso Brasile 2014 e Cassano l'asso nella manica di Prandelli. E adesso invece parliamo del mercato immobiliare, a che punto sta? Ne parliamo con Gianni Guerrieri, che saluto, grazie di essere qui. Guerrieri, buonasera. Direttore centrale dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Proprio oggi sono arrivati i dati, no? Nel senso che c'è stato un po' un arresto verso la discesa che c'era fino a qualche tempo fa, però si può parlare già di risultati positivi. Qual è la situazione, Guerrieri? La situazione continua ad essere un po' negativa, nel senso che i dati continuano ad avere il segno meno. Il problema di questo ultimo trimestre, oggi sono stati i dati del quarto trimestre del 2013, è che sostanzialmente sono dati che hanno subito l'influenza degli effetti della tassazione sull'imposta di registro che dal 1 gennaio del 2014 si è ridotte, quindi una quantità di roditi si è spostata da dicembre 2013 a gennaio 2014, e quindi noi abbiamo che in realtà i dati che segnano per esempio per il residenziale circa un meno 8% per l'ultimo trimestre, in realtà alla luce di questo dato sono un po' meno negativi, perché dovremmo stare in realtà un meno 5%, perché una serie di componenti sono andate a fine a gennaio, e a gennaio infatti ci troviamo con un bel segno positivo. Ma comunque, secondo lei, Guerrieri, questa discesa dei prezzi che c'è delle case, quindi abbiamo parlato sì di crisi, del mercato immobiliare in difficoltà, adesso si può dire che si possono fare per chi ha un po' di liquidità dei buoni affari ancora? E poi ci sono città forse dove non ci sono stati grandi cambiamenti, penso a Milano o a Roma. Ma nelle grandi città in effetti la situazione, anche dal punto di vista del numero di compravendite, è sicuramente diversa. Ad esempio a Milano c'è stata una situazione di aumento delle compravendite. Per quanto riguarda i prezzi c'è ancora un calo dei prezzi e delle quotazioni, in particolare sul residenziale, continua, ormai sono diversi trimestri che l'Istat segna un segno negativo. Anche noi, per quanto riguarda singole città, abbiamo per esempio un meno 4% a Torino, un meno 3,8% a Genova, quindi continuano questi segni negativi, e quindi questo qui è uno dei motivi per cui potrebbe riprendere anche il mercato delle compravendite, perché chiaramente con prezzi in flessione ci sono occasioni per l'acquisto, insomma. Quindi diciamo, Guerrieri, che è più conveniente per chi deve comprare che non per chi deve vendere, anche se chiaramente le due cose si devono incontrare. Assolutamente, diciamo, se prima nei primi anni 2000 il manico del coltello stava dalla parte del venditore, adesso più dalla parte dell'acquirente, perché chiaramente molti venditori, soprattutto alcuni che possono aspettare, diciamo, di vendere, magari abbandonano il mercato, e quelli rimangono quelli che devono assolutamente vendere e quindi sono disposti a scendere di prezzo. Ormai la forbice tra prezzo di offerta e prezzo poi di effettivo acquisto comincia a essere parecchio significativa. Per chiudere, Gianni Guerrieri, quando secondo lei dovrebbe ristabilirsi un po' di equilibrio, dovrebbe riprendersi un po' il mercato immobiliare? Ma diciamo, questo dato dell'ultimo trimestre, che appunto è depurato da questo effetto della riduzione dell'imposta di registro, di fatto mostra, diciamo, che il trend negativo continua a decelerare, quindi è possibile che nel 2014, già nel primo trimestre, cominciamo a vedere un segno positivo dal punto di vista delle compravendite. D'altra parte, adesso sul residenziale, per esempio, siamo arrivati a 403.000 abitazioni compravendute, al di sotto del livello dell'85, tanto per intendersi, quindi è naturale anche che si vada verso un riaumento. Probabilmente i prezzi invece continueranno un po' a flettere anche per il 2014. Bene, quindi per chi vuole comprare si faccia avanti, insomma, questa potrebbe essere la morale. Grazie Gianni Guerrieri. Prego. Grazie, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, adesso ve le ricordo in pochi secondi. A proposito dell'Italicum, no alle quote rosa, sono state bocciate dall'Aula della Camera, bocciate con voto segreto, e intanto Renzi assicura, il PD assicurerà alternanza in lista. Oggi c'è stato il debutto del ministro dell'economia Padoan a Bruxelles, all'Unione Europea, ha detto gli effetti ci saranno in 2-3 anni, e Renzi dice c'è ancora il nodo del fisco, intanto Camusso attacca risposte o reagiamo. Per l'Ucraina ha convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU per la crisi in Crimea, e già la Banca Mondiale si dice pronta ad aiuti per 3 miliardi di dollari all'Ucraina. E per il calcio c'è la convocazione da parte di Prandelli, così ha deciso per i mondiali del 2014 in Brasile, di Cassano. Europa 24 notte. Verso le europee. E per l'appunto stavamo dicendo dell'esordio oggi del ministro dell'economia Carlo Padoan a Bruxelles. Sono stati sbloccati 12 miliardi per l'Italia, ma ci racconta meglio che cosa è successo, cosa ha portato a casa, cosa ha raggiunto il nostro ministro dell'economia Beda Romano, in corrispondente del Sole 24 Ore proprio da lì, da Bruxelles. Beda. Sì, buonasera. Buonasera a te. Com'è andata quindi la giornata del ministro oggi? È riuscito, ha detto che noi, che era lì in Europa, l'Italia è in Europa per fare delle cose, non per chiedere dei favori. Sì, la frase è ad effetto. In realtà il ministro Padoan si è presentato oggi ai suoi colleghi dell'Eurogruppo, una presentazione formale che avviene regolarmente, molto spesso per l'Italia, perché l'Italia cambia governo relativamente spesso, ma è normale che il nuovo ministro delle Finanze che arriva per la prima volta all'Eurogruppo presenti le priorità di politica economica del suo governo, cosa che il ministro ha fatto oggi, questo pomeriggio. L'Eurogruppo poi si è concluso verso le 6:30 e adesso c'è una riunione dei ministri per parlare del meccanismo unico di gestione delle crisi bancarie, che è un tassello cruciale dell'unione bancaria. Senti, e quindi questo sblocco invece dei 12 miliardi per l'Italia, perché si diceva che Renzi aveva annunciato in questi giorni, insomma, un taglio del peso fiscale sul lavoro, adesso bisogna vedere tra IRAP e IRPEF di 10 miliardi, quindi ne avanzerebbero due volendo. No, ho l'impressione che la cosa sia molto più complicata e in realtà forse anche più semplice. Questi 12 miliardi sono dei soldi che in realtà sono stati risparmiati dall'Italia nel periodo 2007-2013, provengono da fondi europei che l'Italia ha deciso di calcolare diversamente. Non starò a entrare nei dettagli tecnici perché ho l'impressione che sarebbero complicati, ma insomma questi soldi sono già stati allocati dai governi precedenti, il governo Monti e il governo Letta, sono già stati allocati e quindi in realtà non si tratta di tesoretto o di fondi nuovi sbloccati, in parte questi fondi sono già stati utilizzati, quindi non c'è un tesoretto nuovo da utilizzare, sono dei fondi che l'Italia aveva a disposizione per il cofinanziamento di fondi europei, di progetti europei. A un certo punto il cofinanziamento è cambiato, il calcolo del cofinanziamento è cambiato, il risultato è che l'Italia ha in parte risparmiato questo denaro, ma che lo ha riutilizzato per altri progetti infrastrutturali. Nessun tesoretto. Comunque Padoan, uscendo dal consiglio dell'Eurogruppo, della riunione, ha detto bisogna cominciare subito, i risultati saranno crescenti nel tempo, probabilmente veramente significativi nel giro di 2 o 3 anni. Adesso chiedere a te, Beda, se sono annunci o se sono, non avendo tu la sfera di cristallo, insomma, ma lì i rapporti, la stima, mi pare ce l'avessero da tempo, no? Visto che ha fatto parte di varie istituzioni europee e internazionali, Padoan. Sì, assolutamente, di questo assolutamente credo che la persona abbia stima, come peraltro avevano stima del suo predecessore. Il problema non è tanto la persona quanto la stabilità della politica, la forza del governo, la forza del Presidente del Consiglio, sono questi poi i fattori che determinano il futuro, il successo o l'insuccesso di un Ministro dell'Economia. È verissimo che Padoan, come d'altronde il suo predecessore, è persona nota qui a Bruxelles, perché prima era Vice Segretario Generale dell'OCSE e quindi ha partecipato in passato a riunioni di questo tipo, conosce le persone, gli è certamente congeniale e facile avere con loro delle conversazioni. Mi sembra che la cosa interessante della riunione di oggi, la cosa che è saltata fuori chiaramente, è che il nuovo ministro dell'economia vuole assolutamente introdurre riforme economiche, misure economiche per cercare di sostenere il tessuto produttivo italiano e ridurre la disoccupazione. Ha spiegato che ci vorrà tempo perché queste misure abbiano successo e ha spiegato che queste misure potrebbero a un certo punto provocare un aumento dell'indebitamento. E quindi ha chiesto indirettamente alla Commissione europea, alle istituzioni comunitarie, di guardare a un eventuale aumento dell'indebitamento nell'ottica delle riforme economiche. In altre parole, se il Paese fa riforme economiche convincenti, pur provocando un aumento dell'indebitamento, beh, questo aumento dell'indebitamento deve essere in un modo o nell'altro accettato dall'Europa perché sta avvenendo per motivi positivi. È chiaro. Grazie Beda Romano da Bruxelles. Ciao Beda. A presto. Arrivederci. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Vedremo insomma man mano come sarà il rapporto tra il governo Renzi e l'Unione Europea, le richieste, gli accordi, i compromessi. Intanto c'è da capire che cosa succederà ai mondiali di Brasile 2014, non è che sono tra moltissimo, anzi siamo praticamente lì, Dario Ricci. Beh, 12 giugno, buonasera Roberta. Ciao. So che hai la data già segnata col circoletto rosso sull'agenda. Case dappertutto, tutti... calendari in casa degli amici, sempre questi circoletti rossi. Hai già organizzato, immagino, le pizzate, no? Certo, birra, anche se non mi piace. Poi, vabbè, diciamo, basta così. Vincere, poi qualcosa si stappa, dai. Dario, senti, però, ecco, è notizia di oggi che l'allenatore della Nazionale Prandelli ha detto che intende convocare Cassano. Molti pensavano che Cassano ormai fosse archiviato, diciamo, con tutto, per carità, il suo curriculum, il suo talento, ma che ormai fosse, diciamo, vestigio del passato, è possibile. Ma, insomma, intanto diciamo che non c'è stato un vero e proprio endorsement di Prandelli. Sono i rumors, quanto inglese oggi mettiamo in questa discussione, che escono un po' dall'ambiente azzurro e che diventano subito notizia. Sembra che Prandelli stia pensando anche a Cassano, adesso spiegheremo anche perché secondo me fa bene, e abbia già sondato i senatori dello spogliatoio. Ecco, questa cosa... senatori, vero? So che ti piaceva questa sì, cosa. Sì, sì, ma però i senatori oggi sono tutto quello che è successo in Parlamento, però un po' mi... probabilmente per ignoranza mia, diciamo, un po' mi irrita, ma perché devono essere quelli titolari da tempo, eccetera, eccetera, che devono dire sì, ci fa piacere, no, ma non ci fa piacere. Non è che danno un vero e proprio assenso, ma è normale, in qualsiasi posto di lavoro si sente il parere dei più esperti, anzi forse noi lo considereremo anche un riconoscimento all'esperienza e al ruolo, no? E perché sì, così non deve essere in una squadra di calcio. Tra i calciatori, dici, anche se certo. Lì dovrebbero essere tutti più o meno, no? Ma insomma, chi è graduati, che siamo tutti uguali a giocare a calcio o a far giornalismo? No, siamo tutti, ognuno un po' diverso con le proprie caratteristiche, quindi è chiaro che chi è anche più bravo a giocare a pallone può anche avere una... Ma lì non ci sono delle qualifiche specifiche però, no? Tra i senatori. Ma nel guarda, senso... no, però è chiaro che il capitano, se è capitano è sia perché è il più bravo... Ma il capitano senz'altro. Certo. E poi ci sono i leader riconosciuti, perché la fascia di capitano è una, ma la leadership in un gruppo si manifesta in tanti modi. Insomma... Quindi insomma, se dicessero i senatori, no, noi non ne vogliamo sapere di Cassano, Prandelli dice, vabbè, rinuncio. Ma insomma, è chiaro che Prandelli sta costruendo più che una squadra, una famiglia. Ah, ecco. E quindi in quest'ottica... Deve mettere tutti d'accordo. Lui è assolutamente favorevole al metodo consultivo. Cioè, l'ultima parola è la sua, ma vuole sentire. È un democratico. Sì, diciamo un democratico autoritario. Perché inevitabilmente così deve essere. Può sembrare uno simolo, ma evidentemente invece può sussistere. Però, quindi credo che sia normale che chieda questo consulto, non tanto un via libera, ma per sapere come un carattere così particolare come quello di Cassano possa essere riaccolto con i suoi atteggiamenti, le sue esternazioni, ma anche con la sua classe, perché questo del Brasile è il mondiale perfetto per Cassano, perché farà caldo, saranno tutti stanchi, i giocatori di fisico e di polmoni forse non potranno rendere al loro massimo, mentre Cassano, che è un veneziano per natura, col pallone può fare quel che vuole, a quei ritmi Prandelli pensa che quella tecnica possa veramente aiutarci a risolvere alcune partite. L'ultima volta che l'ha pensato siamo arrivati in finale a Euro 2012, non solo per merito di Cassano, ma c'era anche lui. Quindi, però dici, fa caldo, ci vogliono i fisici o non ci vogliono i fisici? Cioè, no, bene in Brasile per gli italiani? Ma il discorso è questo, che in un mondiale che probabilmente fisicamente richiederà un surplus di energie e di sforzi, inevitabilmente chi gioca bene il pallone fa meno fatica. E Prandelli ha costruito in questi anni una nazionale che cerca di giocare un buon calcio, non sempre ci riesce, ma ha l'idea di non tanto di fare il contropiede, perché il contropiede vuol dire conquistare rapidamente molti metri e ci vuole il fisico, invece se hai i piedi buoni magari inventi qualcosa o hai il pallone, quantomeno gli altri non ti fanno gol. Stiamo a vedere, ci aggiorniamo a giugno, se è stata una buona scelta. Anche prima, possiamo dirlo. Io ogni tanto busso alla porta, quando è possibile si apre. Grazie Dario Ricci. Grazie a te Roberto. Ciao Dario, salutaci Cassano se tu dovessi incontrarlo, se dovessi esternare, se cosa dicesse. Noi ci sentiamo tra pochissimo.